快乐假期现在出发吧！ 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您：开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道，有线调频98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在今天的节目中，请您欣赏意大利作曲家普契尼的歌剧《托斯卡》全剧录音。托斯卡是意大利伟大的作曲家普契尼根据法国剧作家萨尔杜的同名戏剧改编创作而成的一部三幕歌剧。歌剧讲述了1800年发生在罗马的一个动人的爱情悲剧故事。它是在世界歌剧舞台上演出次数最多，同时也是目前最受人们欢迎的一部歌剧。今天它已经成为众多歌剧院中的保留剧目。该剧于1900年在罗马首演。歌剧《托斯卡》讲述的是1800年的罗马，画家卡瓦拉多西由于掩护了越狱的革命党人而被警察局逮捕。画家的恋人歌剧演员托斯卡找到警察局长斯卡皮亚求他宽恕。斯卡皮亚早就垂涎托斯卡的美貌，于是便提出要托斯卡出卖自己的身体来换取卡瓦拉多西的生命与自由。假如托斯卡同意，他可以执行一个假的死刑。为了救出自己的恋人，托斯卡只得同意了他的无耻要求。就在斯卡皮亚奸笑着说，托斯卡，你终于是我的了，并想拥抱他时，托斯卡急中生智，抓起了桌上放的一把匕首，猛然刺进了斯卡皮亚的胸膛。凌晨，在楼顶平台的刑场上，托斯卡告诉卡瓦拉多西，这是一次假的行刑，并特别叮嘱他在枪响之后千万要装死不要动，等到人群散去之后，他们便可以远走他乡了。然而当行刑的枪声过后，托斯卡这才发现他受骗了。就在托斯卡为失去恋人而悲痛异常的时候，斯卡皮亚的手下也发现了他们长官的尸体，并前来捉拿托斯卡。当警察和士兵们冲到托斯卡的面前时，托斯卡愤怒地高喊着，斯卡皮亚，我要和你一起去见上帝。说完，托斯卡猛然纵身跳楼自尽了。托斯卡虽然是一部爱情的悲剧，但是作曲家普契尼却为他写出了许多情意缠绵、音乐优美的咏叹调与重唱，比如托斯卡的咏叹调为艺术、为爱情，卡瓦拉多西的咏叹调多么奇妙、多么和谐，与今夜星光灿烂等。100多年来，这些不朽的旋律不仅经常在歌剧演出之外的音乐会舞台上被广为演唱，而且还成为了当今许多国际声乐比赛的重要参赛规定曲目之一。由此可见普契尼音乐的动人与美妙。下面就请您连续欣赏由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯等演唱的歌剧《托斯卡》实况录音。 terror che ho svolto, vedi a ceppi di birro in ogni volto. La pila, la colonna, a piede la Madonna mi scrisse mia sorella. Sembiante cuore, sciama fuori

Thank you. Panni, ora Ora te, esa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui, ricordo. Forse c'è ancora, dove la cappella degli attavanti. Eccola, aperta, arcangeli. E un'altra chiave. Buon indizio. Entriamo. Fu grave sbaglio quel colpo di cannone. Il mariolo spiccato e il volo. Ma lasciò una preda preziosa. Cavadossi, lui. Lui il cavaliere. Lui la vada di tosca, un uomo sospetto, un volta leone. Vuoto, vuoto. E detto che fu? Si ritrovò nella cappella, questo cavaliere. O lo conosci? Certo. Il sesto del pintor, quando di me. Scuota quello che sai. Io lo lasciai pieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittore avrà pensato. Nella cappella non ne aveva la chiave, né contava a pranzar. Disse gli stesso, ond'io l'avea già messo. Libera me, domine. Or tutto è chiaro, la provvista del sacrista d'angelo ti fu la preda. Chissà dove sia, svanisca, taglialo per sua stregoneria. Ecco, no, no, no, no, tradirmi non può, tradirmi non può. Tosca divina la non per galanteria, ma per offrirvi l'acqua benedetta. Grazie, signore. Un nobile esempio il vostro, al cielo pieno di santo zelo, attingete. Sovrare, poi calcate la scena e in chiesa ci venite. nel fuggir per belle tende.

piazza trarre accordi di chitarra l'oroscopo di fior né far l'occhio di pesce o trovar come corda. Cosa bravata per seguo, me di sazio e di leggendo. Volta nuova essa, io creò di te se le fati e di versi. Io voglio star, quanto più posso dell'opera di te. Buon punto! Oh, galantuomo, comando la caccia! Santiglia, sua maggiore! Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba di me, a quali frati perduta, e la ventrò, e si sarà ben presto, allor scavalmo l'esco il muro del giardino con i miei cagnotti, e piombo in casa quel bravo spaventa chiudo razzolo frugo ai gli angelotti non si è trovato a cane a traditore ceffo di basilisco e parchi Gesù c'era il pittore cavare d'ossi e il sangue dove l'altro s'assonde ogni suo gesto ogni accento trania tal beffarda ironia io lo trassi in arresto meno male e mi è là introducete il cavalier a me Roberti è il giudice del fisco. Tal violenza! Cavalier, vi piaccia accomodarvi? Posso sapere? Sedete! Aspetto! Eh sì!